Notte di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Palacio prova ad inserirsi, Ruffietto, e l'Inter passa in vantaggio con il gol di Dodò. Pallone in aria, Baiazzalla, arriva il pareggio del Saint-Étienne con il difensore senegalese, 1-1. Qui la rivediamo, vedi, si è staccato Vidic, se l'è praticamente perso, gli è passata la palla sotto le gambe, Baiazzalla tranquillamente è riuscito a far gol. Errore di Vidic, alle sue spalle pronto Mustafa Baiazzal, e dunque Saint-Étienne segna il primo gol in Europa League. Ancora Insigne che riapre, scala del Ghionai per coprire su questo cross, 1-0 Napoli, ha segnato il vento, ha segnato De Guzman, ma qui evidentemente il vento ha avuto un grande ruolo e lo sanno bene e si abbracciano, e il Napoli avanti. Chiude Hiller verticalmente verso Zapata, che non è ovviamente un centometrista ma prova comunque nello spazio, numero di Zapata, fino in fondo c'è De Guzman dall'altra parte, il tocco per lui, piazzato, 2-0 Napoli, 2-0 Napoli, doppietta di De Guzman e straordinario discesa di Zapata, qualche dubbio sulla posizione di partenza, rivedremo tutto, ma intanto è festa a Napoli. Il cross in mezzo, palla messa male, De Guzman, e allora vince anche il pallone, De Guzman, tripletta per lui, minuto 83 ed è un gol pesantissimo per il Napoli che ribalta il 2-0 di Berna. Ancora Golasa, passa Tanasiadis, pericolo Fiorentina, c'è il gol! Di Martin Martens, ben appostato proprio in extremis, il gol del vantaggio del PAOK, e la doccia fredda arriva, ma per la Fiorentina al minuto 82 esplode il tifo PAOK. Meglio Cuadrado di Pasquale a mio avviso per il tocco sul pallone, vedremo, sembra però voler calciare più Pasquale di Cuadrado. Va il capitano, palla che passa, punizione perfetta! Padelli, e poi mette palla dentro, va da quella posizione, finisce l'imbattibilità, granata della porta, ma soprattutto parte in vantaggio Lenzecchi al 60°. Palla insidiosa, non esce Padelli, palla di nuovo nel mezzo e c'è il gol di Moren sulla sponda di Zeneli. Qui Padelli accenna l'uscita, poi rientra. Nessuno va in copertura, Zeneli mette in mezzo, Helsinki 2, Torino 0. Franco Piantaneda, autore di questa puntata, Roby Scaltritti dietro al vetro, Claudia Schiattone l'ultima, Claudia Schiattone in redazione. Oh, meno male che ha tirato Pasquale, mi verrebbe da dire non Cuadrado. 800 24 00 24, se volete chiamarci, siamo in diretta fino alle 16. Carlo Genta a casa con la febbre. Pier, sopravvissuto allo scirocco di Napoli? No? Pier? Sì, sì, meraviglioso. Ieri non vi ho invidiato, tu e i colleghi che erano a Helsinki nel gelo mi raccontano di mulinelli di neve per Helsinki-Torino, condizioni estreme. Helsinki non lo so, Napoli sta benissimo, c'è il vento, ma il vento è una cosa bellissima, Oviente, come canta Clementino, Oviente, presente Clementino, un rapper. Ho presente. Conosci Tafazzi? Te lo ricordi? Sì, certo. Ecco, allora, poi riprendiamo tranquillamente a flagellarci, a dire che siamo messi male, a guardare in casa degli altri. Prova Tafazzi! Dai Tafazzi, vai, siamo tutti con te! Attenzione! C'è! Ci voleva tempo! Pier, ricominciamo pure, però oggi 7 novembre 2014, Il campo dice che abbiamo una squadra già qualificata che è la Fiorentina, due che lo sono quasi, cioè l'Inter e il Napoli, e tutte le altre, Juventus, Roma, per finire al Torino, tutte le altre che hanno in mano il proprio destino. E allora viva Tafazzi, perché il dato è che se i gironi fossero finiti oggi, noi avremmo 5 squadre qualificate su 6 e la sesta, la Juventus, che ha comunque tutto il tempo di ribaltare una situazione oggi appesa semplicemente alla differenza reti dello scontro diretto. Poi noi diciamo che va tutto male, però questa è la fotografia. 8-0-0-24-0-0-24. Io ti dico che sicuramente noi diciamo che va tutto male, e forse questo tipo di eccesso di critica in qualche modo sta stimolando anche il calcio italiano almeno ad affrontare con professionalità l'Europa League, che in questo momento è la competizione che possiamo onorare meglio e che possiamo anche pensare di vincere, perché insomma la verità è questa, che mentre difficilmente Juve e Roma potranno superare Bayern, Real Madrid, Barcellona, le 3-4 squadre che sembrano imbattibili in giro per l'Europa, in Europa League le nostre nessuna se la porta a casa, non, probabilmente, però insomma, sono almeno Inter e Napoli come valore tecnico, ma perché no anche la Fiorentina, eventualmente il Torino, e non sia mai, se dovessero scendere dalla Champions League, Juve e Roma potrebbero giocarsi dall'Europa League. Quindi rispetto al passato secondo me c'è questo elemento, si sta affrontando con maggiore professionalità questa competizione, forse perché qualcuno si è reso conto che è quello che possiamo fare, quindi, però è, voglio dire, essere consapevoli già della propria crisi e delle proprie debolezze è già un primo modo secondo me per provare ad andare avanti e a risolvere i problemi, insomma. Sì, poi ripeto, poi ricominciamo a dire che gli altri sono meglio, che il Bayern è inarrivabile, scoperta dell'acqua calda. Io però ecco, mi sono un po' stufato di sentir dire, di leggere e di dire anche che noi siamo quelli messi peggio di tutti. Il campo non sta raccontando questa verità. 800 24 00 24, se siete depressi telefonate e ci raccontate, magari siete tifosi del Toro, ha ragione un amico che ha scritto abbiamo dimenticato il gol di Quagliarella, se invece siete ottimisti telefonate lo stesso. 800 24 00 24. La cosa di rompo di tua, no, è una cosa che mi piace, piace ai miei figli, la trovo una cosa eccezionale, bella perché è detta da un giornalista eccezionale. Tutti convocati. Amici di Sport Media, siete appassionati di calcio, buonasera e benvenuti. E quello che sentite è lo scroscio del vento in una notte di scirocco, in una notte perfetta per navigare. E noi ce l'abbiamo qui, non è volato via, anche perché è difficile volare via, Pier. 115 kg. Ci hanno scritto anche dall'Argentina, Carlos Alberto, ma il gol del Toro, perché non lo avete trasmesso? Perché? Nel mucchio, clic, poi sotto porta Quagliarella! Quagliarella! Riaccende le speranze Toro! Helsinki 2, Torino 1, ancora lui, Fabio Quagliarella, 15 secondi al 90esimo. Oh, peccato per il Torino, Pier, però ieri sera ad esempio ho visto un Napoli che fa fare mille ragionamenti su quella che può anche essere la prospettiva di stagione, dopo la notte quella della vergogna dell'andata contro lo Young Boys, 3 vittorie, un pareggio con rigore sbagliato al 93esimo, tantissimi gol fatti. Che hai visto tu? Ma allora, io ho visto, ti devo parlare di Torino? No, del Napoli. Ah, del Napoli, scusami, mi ero distratto un attimo. Allora, eri a Napoli, Napoli no? L'ho visto molto bene, l'ho visto tonico, l'ho visto sicuramente, insomma, il rapporto palle gol create, palle gol subite, praticamente una, tra l'altro all'88esimo, secondo dopo che avevo detto che lo Young Boys non poteva mai tirare in porta, e quindi ho rischiato veramente strisciare la notizia a profusione. Ringrazio Rafael perché era veramente incredibile. Hai sentito anche il tuo collega da Firenze, no? Meglio Cuadrado che Pascual, no, tira Pascual, palla all'incrocio 1-1, Fiorentina qualificata. Incerti del mestiere. Sì, no, ma lì però veramente sfido chiunque, insomma, io poi sono poco scaramantico, quindi forse Devo stare più attento a queste cose, però insomma veramente Napoli Young Boys, il Napoli ha dominato, ha umiliato lo Young Boys che non ha mai costruito occasioni, ha avuto una mezza occasione con Nicci a metà ripresa su mezzo buco difensivo e poi ha avuto questa palla gol a due dalla fine. Ma in assoluto il Napoli mi è piaciuto perché comunque ha giocato una partita intelligente, una partita molto, molto attenta, con grande calma, ha trovato il gol anche grazie alla folata di vento sicuramente, però c'è anche da dire che le occasioni che aveva costruite c'erano avute due De Guzman, una Insigne, e poi comunque ha fatto questa partita con un abbondante turnover e quindi avrà anche secondo me risparmiato delle energie importanti in vista di Firenze. Quindi il passo avanti l'ho visto, il Napoli poi dal punto di vista secondo me della qualità in mezzo al campo e dell'attacco può permettersi abbastanza tranquillamente queste rotazioni, nel senso che Hiller, Gargano non sono così distanti da Lopez e Jorginho, sono sicuramente dietro, ma insomma non è... Sì, anche se in passato questo giochino delle due formazioni, campionato d'Europa League, non aveva portato grandissima fortuna. Era completamente diverso. Napoli Mazzarri aveva una squadra B, con tutto rispetto per Donadel, per il Caduri, che era quello di qualche anno fa, ovviamente non era ancora cresciuto, c'erano usati in porta, era una squadra veramente in grandissima difficoltà ed era una squadra nettamente inferiore alla prima. Il Napoli di ieri secondo me è un Napoli competitivo che davanti si è presentato con Mertens e Insigne che sono praticamente due titolari, no? Due mezzi titolari, e lo stesso De Guzman, al di là del merito della tripletta, insomma un giocatore comunque interessante. L'unica riserva vera davanti era Duván Zapata, che sicuramente è dietro ai Higuaín nelle gerarchie, e dietro poi anche l'infortunio di Britos che ha consentito l'ingresso in campo di Goulam, ha finito per annacquare ulteriormente il turnover. Quindi però insomma secondo me Benitez ieri ha ottenuto il massimo. Sì, poi ha scoperto De Guzman che probabilmente da domani sera sarà più integrato nel progetto. Noi continuiamo ad aspettare i depressi e gli ottimisti sul calcio italiano. I numeri ve li abbiamo dati, 8-0-0-24-0-0-24. Beh, vi dico ad esempio la Spagna, che ha già perso una squadra al preliminare, è già sicura dell'eliminazione dell'Atletico Bilbao, l'Italia no, il Portogallo è già sicura dell'eliminazione di una squadra dall'Europa League e ne ha già persa una al preliminare, l'Inghilterra rischia di dimezzare le squadre dalla Champions League e ne ha già persa una dal preliminare. Ripeto, io mi sono stufato di sentire tutti quelli che dicono che siamo la periferia dell'impero. Saluto Aldo Serena, ciao Aldo. Ciao a tutti voi. Ottimista o depresso? Beh, devo dire realista, e quindi guardo l'Italia e guardo il campionato italiano che è in linea con il paese, quindi i fasti sono alle spalle e speriamo nei ritorni in un futuro che non sarà a breve. Sì, anche se poi in realtà sul campo ci battiamo con gli altri, o almeno questo dicono i risultati. Ieri ad esempio io ho visto un'ottima Inter per un tempo in Francia, in casa della quarta della Ligue 1, che è uno dei campionati in espansione. È vero, il primo tempo dell'Inter è stato un primo tempo fatto con personalità, Mazzarri che è sotto l'occhio del ciclone, cioè dentro proprio una situazione molto difficile, è riuscito a tenere secondo me ieri in una formazione abbastanza precaria una qualità di gioco nella prima parte notevole, poi ecco nella ripresa devo dire che hanno un po' subito, hanno avuto un po' di timore, ma alcune notizie importanti sono quelle di un Palacio che si sta ritrovando, non col gol ma quantomeno nella condizione atletica. E poi io guardo sempre con un occhio di riguardo i giovani e mi piace così che vengano lanciati, che vengano sostenuti. Bonazzoli è un ragazzo che ha qualità. Sì, Pier Brodino, quello dell'Inter, notizia secondo me più importante, tutte le volte che si arriva a una partita della svolta, così viene etichettata, c'è la dimostrazione che la squadra, il gruppo, l'ambiente sono tutti con Mazzarri. Sì, tanto saluto al dito 11. Ciao Pier. Ma sì, insomma diciamo che la parte che, come spesso mi capita di ripetere, io non credo complessivamente ai giocatori che giocano contro gli allenatori, cioè secondo me è una formula questa sbagliata e che è veramente l'eccezione dell'eccezione, la nicchia della nicchia, potrà essere successo qualche volta, ma in assoluto secondo me i calciatori, altro lo potrà confermare, vanno in campo per giocare, per ottenere il risultato. La verità è che chiaramente è uno sport di eccellenza dove per vincere devi essere migliore di un avversario altrettanto preparato, altrettanto allenato, la differenza la fanno piccoli dettagli, quindi il livello di motivazione è fondamentale e se un allenatore riesce ad allenarti meglio, a darti più motivazione, poi spesso riesce a far bene rispetto a qualcun altro che magari ti sta meno simpatico o comunque ti motiva di meno. Molto semplicemente, l'Inter è un continuo alto-basso, cioè ieri ha dato la dimostrazione, io per la partita l'ho vista poco, ho visto le immagini dopo, ho letto i commenti, ha dato la dimostrazione di essere ancora una squadra presente a se stessa, che è ancora viva. Sì, ieri c'era tutto per andare alla deriva, c'era l'avversario, il clima particolare di quello stadio pieno, c'era l'emergenza, gli infortuni, i giovani in campo, diciamo la verità, c'era tutto per essere qui oggi a raccontare di un'altra sconfitta, di un'altra notte difficile. Secondo me è un segnale se questo non accade. Sì, ma secondo me, cioè, l'Inter in questo momento è una squadra da medio-alta classifica che fatica e che quindi alterna prestazioni buone a prestazioni meno buone, una squadra incostante. Cioè, al di là ovviamente di tutta la letteratura che noi facciamo dietro, perché si chiama Inter e quindi ovviamente ci sono mille attenzioni, ci sono mille pressioni e quindi chiaramente ne parliamo continuamente. Non è che ci sia chissà quale disegno letterario dietro. L'Inter è questa, è una squadra buona, non buonissima, con dei limiti, con delle oscillazioni di rendimento, qualche volta scende in campo meglio e fa buone partite, qualche volta non le fa. Il punto è migliorare la percentuale di partite buone, cioè molto semplicemente, insomma, non ha una classifica che è una classifica secondo me in campionato non soddisfacente, inferiore a quelle che sono le attese, ma non così distante da quello che è il valore tecnico. Ma il problema poi è che domenica sera noi saremo qui a raccontare di un'ennesima domenica particolare. Mazzarri verrà fischiato, eviteranno di dire il suo nome, tutto quello che abbiamo già letto, e in queste condizioni, Aldo, anche tu confermi, credo, poi diventa complicato. Secondo me non è nemmeno un caso che una partita come quella di ieri sia uscita in trasferta. No, non è assolutamente un caso. Io ho fatto 7 anni all'Inter e devo dire che in alcuni mi è andata bene, abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo vinto Coppa UEFA, insomma abbiamo fatto bene in generale, in altri no, e quando si instaura quel meccanismo che è veramente pericoloso, tifosi che fischiano, giocatori che sono intimoriti, che hanno paura di chiedere il pallone, che si nascondono, una squadra che non trova più la quadratura perché veramente c'è un timore in campo di farla giocata, diventa difficile per tutti, e l'allenatore che dovrebbe dare serenità è in alcuni casi l'oggetto proprio principale delle critiche. Non è assolutamente semplice e credo sia così anche in altre squadre. Volevo sottolineare appunto questo atteggiamento che forse non c'è in tutti i paesi di calcio d'Europa, c'è prevalentemente in Italia, un po' in Spagna, insomma questa pressione notevole che sentono le squadre, poi si riversa anche in una qualità del gioco ma soprattutto anche della condizione atletica. Noi parliamo tanto che all'estero corrono di più, io penso che ci sia proprio anche un fatto mentale, i calciatori italiani sono un po' limitati dalle tensioni, dalla pressione che c'è e quindi non hanno una libertà e una facilità anche proprio nei movimenti, sono abbastanza compressi e credo che non sia una qualità sbagliata degli allenamenti, ma più che altro una forma mentale che condiziona poi anche nella libera espressione dei calciatori in campo. Siamo un po' depressi per nostra natura, oltre ai tanti problemi che abbiamo. Grazie Aldo. Ciao a tutti voi. Grazie ad Aldo Serena. 800 24 00 24. Sai Pier, mi va di lanciare una provocazione anche agli amici da casa, gli amici interisti, cioè ad esempio dopo un primo tempo come quello di ieri a Saint-Étienne, fosse stato a San Siro, Mazzarri sarebbe stato fischiato, come ad esempio accaduto all'intervallo di Inter-Samp, o no? 800 24 00 24. Io andavo a campo mezz'ora prima degli altri e finivo mezz'ora dopo gli altri. L'unica cosa che mi piaceva era calciare. Quando gli altri entravano negli spogliatoi, mi fermavo, fermati, mettiti in porta, e cominciava di nuovo finché era buio. Gigi, non ci vedo più, non importa, io calcio lo stesso. La pianta gli piaceva, quindi faceva la vittima, ma gli piaceva anche lui. Io non ero neanche abituato a queste cose, dicevo, ma mamma mia, questo qui mi uccide. Convocati. No, sono molto orgoglioso di questa partita, perché il primo tempo abbiamo fatto gran calcio, abbiamo avuto solo il torto di non fare 2 o 3 gol, ne abbiamo fatto solo uno e non abbiamo chiuso la partita. Poi con l'emergenza totale che abbiamo non avevamo nemmeno tanti cambi, abbiamo finito con l'esordio di un ragazzo della primavera, siamo calati e Saint-Étienne, come era logico che fosse in casa, l'ha tentate tutte per poter addirittura vincere, e abbiamo meritato questo pareggio che ci dà molto per la qualificazione. Chiaramente per la differenza a reti credo che era importante per noi fare 3. Non subire o fare anche di più, no? Credo che questa è la mentalità giusta se vogliamo non avere i problemi che abbiamo avuto l'anno scorso nella Champions. Per sapere che il paradosso è che in questa settimana noi abbiamo celebrato soprattutto la Juventus per la svolta tattica, la vittoria di rimonta, la capacità di non naufragare in una partita difficile. Beh, oggi la Juventus delle 6 italiane sarebbe l'unica eliminata, l'unica in condizione di retrocedere dalla Champions all'Europa League. Però questo secondo me è anche il segnale positivo della vitalità di cui parlavamo prima. Io non sono depresso, io sono ottimista. 800 24 00 24, prova Tafazzi, dai Tafazzi, tutti con te. No, io non sopporto i Tafazzi, eh. Pietro da Parma, Pietro. Pietro è un Tafazzi. Agostino da Bari. Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera a voi. Dica, senta, Agostino. Io seguo sempre la vostra radio, no? Quando sto al lavoro, accendo e fate dei commenti giusti anche. Niente, io volevo dire solo che sono abbastanza ottimista per quanto riguarda le nostre squadre italiane. Per quel poco che abbia visto dal vivo la Juve, è, a livello europeo, è una squadra, sempre una mia opinione, che la Juve è molto quadrata di quello che si dice. Non sono di fede juventina, eh? Sì. E anche per quanto riguarda il Napoli vedo una grossissima squadra. Sì, il Napoli credo, Agostino, sia costruito anche con la potenzialità di arrivare fino in fondo in Europa League. Lo sarebbe anche la Juve, dovesse retrocedere. Prego, Agostino. Penso che, a parte in Europa il Napoli, anche in campionato dirà la sua, ne sono convinto perché ha un potenziale enorme. Però la Juve, io credo molto nella Juve, perché vedendo le due partite di Madrid e quella della, in Grecia con l'Olympiakos, ha dimostrato che come squadra ben compatta non ha subito molto. Sì, no, insomma, ha preso quei due gol che gli sono costate due sconfitte, Pierre. Non so se Agostino era ironico. Non lo so, citava Madrid e Atene. No, la Juve sicuramente finché ha avuto un cammino così in Champions, sicuramente in Europa le succedono delle cose che in Italia mediamente non le succedono, questo può essere legato alla maggiore forza degli avversari, ma forse anche all'imponderabile, insomma. Quindi poi ci sono partite più o meno fortunate, sicuramente la Juve non è stata fortunata né a Madrid né con l'Olympiakos ad Atene. Poi ci sono i limiti ci sono, sicuramente il primo tempo alla Atene è stato brutto, molto brutto, la squadra ha avuto bisogno comunque di distrarsi e di uno schiaffo per reagire in casa contro i greci. Sì, molto brutto anche aver regalato due gol, che è una costante di questi anni europei della Juventus. Sì, ma insomma, come diciamo anche ieri, è chiaro che il campionato è 38 partite, più tempo per recuperare, è uno sport un po' diverso. La Champions e le competizioni brevi sono, vivono molto della logica della grande partita, della grande notte e del non poter sbagliare. Da questo punto di vista sicuramente la Juve qualche limite in più rispetto alla regolarità che ha in campionato l'ha sempre palesato in questi anni, quindi da questo punto di vista non è una cosa che mi sorprende molto. Detto questo, io penso, tornando al discorso di prima, al nostro antitafazzismo di oggi, che insomma tre squadre italiane sono a un passo dalla qualificazione, una è già qualificata, le altre tre che sono Juve, Roma e Torino comunque sono nella condizione di poterlo fare, quindi credo che ci sia rispetto al passato un piccolo passo in avanti. Ci vuole una ventata di ottimismo. Quanto meno di consapevolezza. Una ventata di ottimismo. Negli scorsi che giocavamo l'Europa League con l'atteggiamento di chi si sentiva superiore e però prendeva schiaffi a destra e a sinistra. Oggi almeno mi sembra che ci sia un rispetto per quello che è il nostro livello e quindi per le competizioni nelle quali possiamo far bene, che lascia almeno intravedere una speranza, insomma. Pietro da Parma, vediamo se è tornato. Pietro. Sì, ci sono, buongiorno. Eccoci qui, ottimista o depresso? Depresso, io sono al contrario di Pierluigi, molto depresso. Quando senti Garcia entrare in sala stampa dopo aver subito una sconfitta 2-0 e gli senti dire che con quella sconfitta ha cancellato il 7-1 dall'andata, ma il calcio italiano, ma dove cosa doveva dire Pietro? Cosa doveva dire? Ma no, non può, no, io se fossi un presidente mi arrabbierei molto. Devi dire che ci abbiamo provato e che bisogna provarci ancora e ancora. e non star lì a subire, basta, non andiamo avanti, questa è mancanza di personalità. Invece secondo me la Roma ha fatto benissimo, Pier, problemi fisici, infortuni, condizione che evidentemente ha dei limiti, ha fatto benissimo a pensare che fosse meglio prima di tutto evitare di andare a prendere un altro cappotto a Monaco. La Roma non è scesa in campo per perdere l'altro giorno, la Roma attraverso un atteggiamento prudente, provinciale, diciamo così, appunto, portato a limitare i danni, ha cercato di fare risultato. Chiaramente il risultato, la strada per fare risultato in quel modo lì passa per una serie di episodi e dove deve andare tutto bene. Questo non è successo, la svolta poteva essere se Nainggolan avesse avuto su quella imbucata un atteggiamento diverso invece di tuffarsi, sprecare quell'occasione, di tuffarsi, e quindi lì poteva girare la partita. Non è successo, il Bayern ha dimostrato ancora una volta di essere superiore, ma diciamo che rispetto alla partita di Roma, nella quale la Roma era arrivata con l'illusione di potersela giocare alla pari e con l'entusiasmo della vittoria contro il Chievo, di un buon inizio di stagione, la partita di ritorno è figlia invece della depressione. Sì, ma meglio così, Pier, meglio un po' di sano, sì, realismo. Meglio o peggio, non ti so dire se è meglio o peggio. Io ti dico che la Roma, secondo me, correttamente Garcia ha provato a fare la partita dopo quell'andata che poteva fare, ma non è che l'ha fatta per perdere 2-0, l'ha fatta perché voleva sperare di fare il risultato in qualche modo, ed era difficile farlo. Poi possiamo discutere mille cose, però l'atteggiamento di partenza era quello. Giovanni da Rimini, Giovanni. Salve, vi ringrazio per la convocazione. Prego. Volevo dire la mia sulla Juve. Io sono un gran tifoso della Juve. In merito alla Juve in Champions, c'è da dire che credo che quegli uomini che ha faccia il possibile. Perché il problema degli esterni della Juve, di cui avete parlato tanto, è secondo me il punto chiave. La Juve ha due esterni come Lichtsteiner e Asamoah che non fanno arrivare le palle al centro che dovrebbero ricevere gli attaccanti, e questo è un grosso problema soprattutto per degli arieti come Llorente. E poi l'altra cosa che secondo me è un limite di cui non si parla della Juve, credo che abbia dei problemi anche col centrale, perché Bonucci quando non è in giornata può commettere anche degli errori gravi. Sì, intanto il problema è che il centrale numero uno, cioè Barzagli, non si è ancora visto in questa stagione. Esatto, secondo me Barzagli è fortissimo. Pier, anche questo è limitante. Sì, l'assenza di Barzagli pesa sicuramente. Detto questo, insomma, anche con Barzagli la Juve negli ultimi anni ha faticato in Europa, quindi non deve neanche diventare un alibi. Barzagli per me è un difensore, dal punto di vista, l'ho fatto mille volte questo discorso, dal punto di vista della percentuale di errore è il miglior difensore della Juve. Bonucci ha piedi migliori, però sbaglia un po' di più. Chiellini ha una fisicità eccezionale che lo rende un giocatore all'inglese, con una serie di prodezze che di tanto in tanto riesce a fare, però sicuramente dal punto di vista della percentuale del margine di errore in difesa Barzagli è il migliore di tre, su questo non ci sono dubbi. Detto questo, insomma, la Juve sta facendo il percorso che può fare, Juve e Roma stanno facendo il percorso che possono fare. La vera notizia nel girone della Roma secondo me non è tanto il 7-1 del Bayern, che certamente rimarrà e sarà ancora oggetto di spottò, ma è la crisi del Manchester City, cioè la squadra che non è al posto suo dopo 4 giornate è il Manchester City. Sì, che è tradizione anche questa, perché il Manchester City dovesse essere eliminato sarebbe alla terza eliminazione negli ultimi 4 anni. Pensa se fosse una squadra italiana che fiumi di inchiostro spenderemmo sul declino del nostro calcio. Di soldi spesi che è assurda. Assolutamente. Giorgio da Prato. Giorgio. Ciao cari amici. Prego. Ciao. Io ieri sera sono venuto via dallo stadio, io sono tifoso viola, e con una sensazione molto molto molto positiva, perché per la prima volta abbiamo visto un Gomez partecipe alla manovra, ha giocato 94 minuti pur non essendo riuscito a segnare anche per una paratona del portiere, era un giocatore finalmente in parte integrante della squadra, anche più di quello che era stato prima del primo infortunio. E gli ultimi 20 minuti di Marco Marin è un giocatore che a me ha dato una sensazione, io sono 35 anni, vado allo stadio, ha fatto 3 o 4 azioni che io mai avevo visto, mi ha dato quasi la sensazione di un giocatore che volasse sul campo. Ce l'avete presente come l'omino di Google Maps giallo? Una cosa incredibile. Io credo che se la Fiorentina, che finalmente la sua sfortuna si dimentica di noi, e recuperiamo in un solo colpo Gomez e Marco Marin, secondo me la Fiorentina è stata data per spacciata un po' troppo. Sì, se poi Gomez tornasse a segnare sarebbe una buona notizia, perché non credo la Fiorentina possa andare avanti a lungo senza Gomez, Rossi, senza quei gol lì. Capisco l'entusiasmo e lo condivido, però siccome negli ultimi 18 mesi alla Fiorentina è successo di tutto dal punto di vista soprattutto degli attaccanti, io aspetterei, sinceramente aspetterei, perché la sfiga veramente è stata clamorosa, sì. E ha condizionato la passata stagione della Fiorentina senza alcun dubbio, e secondo me la Fiorentina quest'anno al terzo posto, per me mi sembra un miraggio, non lo so, poi magari mi sbaglio, terzo posto mi sembra un miraggio francamente. Ho avuto una discussione anche con la Radio Firenze l'altro giorno, perché è chiaro che questa è una squadra che dal punto di vista della qualità del gioco e dal punto di vista veramente del premio della critica negli ultimi due anni, soprattutto due anni fa, ha fatto delle cose eccezionali e meritava ben altra fortuna. Però poi quando tu perdi due giocatori come Gomez e Rossi, che sono i tuoi due attaccanti principali, che sono i tuoi due crack, e li perdi praticamente per uno per tutta la stagione e l'altro per metà stagione, poi è ovvio che i conti possano non tornare. Sì, sarà anche un miraggio quello del terzo posto, ma oggi è il giorno dell'ottimismo e quindi fanno benissimo i tifosi della Fiorentina a pensarci. Poi io non avevo mai sentito il paragone con l'omino di Google Map, prendi nota per la prossima telecronaca. Traffico. Interessa le signorine, a noi, per noi non interessa. Le donne sposate. A te non interessa. Ma è un bel ragazzo. Un bel ragazzo, abbastanza direi. È il migliore che esista al mondo. Non lo sostituisce nessuno, ma proprio nessuno. Il migliore con la O del mondo. Di tutti i tempi, giusto? Di tutti i tempi. È il migliore giocatore del mondo. Meglio di Pelé. Meglio di Pelé. È più forte. Convocati. Fiorentina con lo smoking oppure la Fiorentina come piace a te stasera? No, io credo che abbia messo l'abito giusto e quindi entrambi. Ha fatto una grande gara secondo me in termini di continuità di mole di gioco, non certo in termini di realizzazione, di finalizzazione o di scelta finale. Sarebbe stata veramente una beffa perdere questa partita. A me è piaciuta anche la reazione dopo il gol loro, appunto nata in maniera rocambolesca, che c'è stata questa forza di volontà e non solo per riprendersi una partita, ripeto, sarebbe stata una beffa perdere. Chiedo scusa tanto ai tifosi che sono venuti fino a qua perché si aspettavano un Toro almeno con il cuore, cosa che non c'è stata. Abbiamo perso contro una squadra che aveva molto più cuore di noi. E del resto non si può pretendere di vincere se non fai un contrasto. Questa partita deve far fare tante riflessioni a me, ai giocatori, alla società, a tutti quanti. Depresso, io sono al contrario di Pierluigi, molto depresso. Ecco dietro Tafazzi! L'aveva presa benissimo, Ventura, Pier. Però una reazione forte la sua, che penso sia costruttiva. Sì, presidente del partito dei depressi, dopo ieri sera. Io sono l'inno dell'ottimismo, perché quest'anno mi occupo spesso di Europa League, Italia 1, 4 partite e 4 vittorie, quindi l'ottimismo proprio ce l'ho detto. Quindi fra 3 settimane cosa fai? Faccio, non so, no, non lo sai ancora. Sì, comunque le 21.05, quindi o Inter Dnipro oppure Torino Bruges. E allora vai a fare il Torino, sicuro, perché l'Inter non l'ha data in chiaro, almeno nella prima fase. Quindi no, Torino no. Qualificato, possiamo no. Annunciarlo oggi, 7 novembre. No, Torino no, qualificato no, ai sedicesimi di finale. Ciro da Napoli, Ciro. Buongiorno, persone squisite. Io spero sempre che alle ore 14, perché sto in viaggio, sempre. Grazie per la convocazione. E spero che Pietro, che è stato a Napoli, spero che ti ha mangiato la sfogliatella e ti ha portato qualcosa a te. No, ma tra l'altro lui è, come dice qualcuno, chiuso in una camera dove c'è qualcuno che dorme, per questo parla piano, ma non è qui, anzi, viene domenica. Però si sente bene oggi, se sì. Vuoi urlo. No, si sente benissimo, viene domenica con la sfogliatella, ha ragione Ciro. Comunque, volevo dire due domande. Allora, la prima è, Insigne adesso sta molto in forma, sperando che va in nazionale. La seconda è, cioè, questo Napoli che stiamo vedendo adesso, questo Napoli riesce a fare la finale della Europa League? E poi un'altra cosa, mi dispiace per te Pietro e mi dispiace anche per lui, io ho 10 sfogliatelle, a chi li devo portare? A Pierluigi. Fa tutto lui. Sono lisce, cioè sono frolle o sono lisce? Sono frolle o lisce? Sono 5 frolle e 5 ricce c'ho. Ah, 5 frolle, perché tu che sei, per la frolla o per la riccia? Io sono per la riccia. Tu? ascolta Ciro, per la frolla o per la riccia? Va bene, allora prossima volta che mi trovo da voi, perché adesso sono lontano, sto facendo per la frolla o per la riccia? Non lo sa. Niente, grazie Ciro. Sì, può arrivare avanti, poi dopo è tutto da scrivere. Allora, le competizioni di coppa sono per definizione molto umorali, cioè, mentre è facile fare un pronostico per il campionato, comunque è abbastanza possibile in generale fare dei pronostici sulle 38 partite, perché comunque le differenze vengono fuori. La coppa si decide su situazioni. Milan, quando ha vinto la coppa nel 2007, era giocata malissimo fino a un certo punto, poi è riuscita con 3-4 partite eccezionali a cambiare completamente il suo destino. L'Inter, quando ha vinto la Champions nel 2010, aveva rischiato di uscire nel girone, c'è quella famosa impresa a Kiev negli ultimi minuti. Quindi, e altre volte succede il contrario, succede che parti benissimo e poi precipiti. Sì, questione di dettagli. Napoli abbia assolutamente le potenzialità per poter andare molto avanti, poi ovviamente dipenderà da quello che succede in quelle partite speciali, insomma, in quelle situazioni speciali in cui si alzerà il livello e quindi poi saranno veramente finali, lì bisognerà tirare fuori il massimo. Ma il Napoli è una delle squadre, non sono molte, secondo me, che può vincere l'Europa League, ma secondo me anche Fiorentina e Inter possono far molto bene, il Torino può andare avanti, insomma, secondo me le potenzialità lì ce l'abbiamo, e se anche dovessero scendere, speriamo di no, delle italiane dalla Champions all'Europa League, secondo me avrebbero la possibilità di giocarsela fino in fondo. Pier, c'è il momento che ci piace tanto, prima di salutarti, il momento schedina. Ah, eccoci qua, vai. Sassuolo-Atalanta. Sassuolo-Atalanta 1. 1. Sampdoria-Milan, poi vi dico che ci sono delle chicche di Sinisa Mihajlovic, eh? X. Cagliari-Genoa. Cagliari-Genoa over. Over. Ma chi vince? No, non lo dici. Vince Cagliari-Genoa. Pareggio con gol, dai. X. Chievo-Cesena. Chievo-Cesena invece è un under puro ed finisce 1-0 per il Chievo. Empoli-Lazio, devi dire 1x2, perché noi 2. Stiamo registrando, sai che il tuo record è 4. Empoli-Lazio 2. 4, molto di più. Juventus-Parma 5 forse. Juventus-Parma 1. 1. Palermo-Udinese. Palermo-Udinese, questo per me è gol, tecnicamente parlando, diciamo 1. 1. Fiorentina-Napoli 2. 2. Inter-Verona. Inter-Verona, casino cosmico. Casino cosmico, Verona... arbitra Rocchi, eh? Sì, no, a parte questo, è sempre malizioso. Inter-Verona è... Inter-Verona 2. 2 e Roma-Torino 1. 1. Pier, credo sia 5 il tuo record. Ci sentiamo, ci vediamo domenica. Allora, se faccio meno di 8 potrei anche dimettermi. Tu hai i numeri di Zeman. Ciao Pier, a domenica. Quote e pronostici. Questa sera scende in campo la Serie B con il primo anticipo della 13ª giornata tra Spezia e Crotone. Vediamo quelle che sono le quote sniper. Il match che si gioca alla Spezia a partire dalle ore 20:30. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata 1,95. L'X è a 3,20. Il 2 invece, con la vittoria del Crotone, è quotato 4,25. Sabato poi scende in campo il resto delle squadre di Serie B con Bologna-Carpi, che è il piatto forte della 13ª giornata. L'1, la vittoria dei Felsinei, è quotata 2,10. X a 3,15. 2 invece, quotato 3,70. Catania invece impegnato al Massimino contro il Varese, sempre sabato alle 15. L'1, la vittoria dei siciliani, è quotata 1,75. L'X è a 3,40. Il 2 invece è quotato 5. Sempre domani scende in campo la Serie A con i primi due anticipi, Sassuolo-Atalanta e quello delle 18, mentre alle 20:45 c'è la sfida di Marassi tra Sampdoria e Milan. 1 quotato 2,60. X quotato 3,25. 2 invece, con il successo dei rossoneri di Pippo Inzaghi, quotato 2,70. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi. Noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Come siamo messi con i pronostici? Lei giocava la schedina? Schedina, una volta feci 12. Quando c'era il 12 del tempo, veramente. Vediamo come se la cava con l'11ª giornata di campionato. Cagliari-Genoa. Cagliari-Genoa X. Chievo-Cesena 2. Empoli-Lazio 2. Fiorentina-Napoli X. Inter-Verona. Inter-Verona 1. Juve-Parma. Vogliamo fare un 13 sospensivo? Facciamo pari, via. Facciamo pari. Palermo Udinese. Se il Palermo gioca come ha giocato a Milano, vince il Palermo. Roma Torino. Io sono Renato nel cuore, proprio non posso che dire Torino. Sampdoria Milan. Mio figlio tiene per il Milan, lo dico per l'amore che voglio al mio figlio. Sassuolo Atalanta. Sassuolo Atalanta 1. Poi lunedì controlliamo se è andato meglio Gigi Simoni o Pierluigi Pardo. Intanto notizie da Nyon. È finito, è durato 2 ore e mezza l'incontro tra Toir e il board dell'UEFA che si occupa delle sanzioni per il fair play finanziario. L'Inter ha spiegato il piano quinquennale per ridurre il debito, il deficit e tutto il resto. Alla fine c'è stato anche un incontro fra Toir e Michel Platini. Oh, a proposito di Inter, mi fate sentire Simoni su Mazzarri? Mazzarri è stato anche il mio giocatore, quindi lo conosco bene. Mi voglio bene, il ragazzo che ho avuto, però gli sarei più grato se fosse più equilibrato nel dare i giudizi. Non, a mio avviso per lui la sua squadra gioca sempre meglio dell'avversario, l'arbitro dà sempre addosso e gli episodi sono sempre contro l'Inter. Secondo me questo farebbe bene a toglierlo, rimarrebbe bravo. Bravo ragazzo e anche un bravo allenatore, però risulterebbe più simpatico e nei momenti di difficoltà la simpatia che possono avere per te i tifosi, la stampa, ti aiuterebbe più che darti addosso. Un bravo ragazzo un po' antipatico, prima o poi lo troviamo qualcuno che ci chiama e ci dice che è dalla parte di Mazzarri. 800 24 00 24. Io voglio sapere anche da tifosi interisti se ieri sera dopo il primo tempo avreste fischiato Mazzarri come è capitato per Inter-Samp. 800 24 00 24. Franco da Monza, Franco. Sì, pronto? Prego. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire sul discorso che facevate prima sul fatto che i nostri giocatori corrono meno degli altri, diciamo. Secondo me è perché sono un po' troppo coccolati, pagati, viziati. Sì, invece all'estero prendono 1000 euro al mese. Non so quanto prendono, ma so di sicuro che prendono molto meno, diciamo, ingaggi a parte i nomi più importanti, no? Voglio dire. Insomma, lo stipendio medio del Barcellona è intorno ai 7 milioni di euro, quello medio in Italia. Chi prende di più arriva a 4,5, Franco. Non lo so, io ne sento un po' di altre cifre a volte, no? Ascolti, poi un'altra cosa, sì. Io ho sentito anche dire prima, no, che sempre riguardo questo argomento, che i nostri calciatori sono un po' stressati da tutte le polemiche eccetera, però vorrei dire, non esageriamo a dire stressati, perché se no i lavoratori normali normali che lavorano tutto il giorno con i problemi che hanno eccetera, cioè cosa dovrebbero fare se i nostri calciatori sono stressati? Sì, con quello che sono sicuramente più stressati quelli con 1000 euro, se li hanno 1000 euro al mese, Franco, però quando si parla di sport ad altissimo livello poi basta poco per fare la differenza. Il discorso lo faceva Aldo Serena, uno che qualche partita a San Siro l'ha giocata, e in tanti hanno raccontato che poi diventa difficile esprimersi al meglio quando hai quella pressione, quei fischi, li senti. È una cosa che dicono spesso gli atleti di alto livello, non solo i calciatori, non solo quelli che guadagnano milioni di euro, quindi io credo sia una cosa da prendere come descrizione reale di quello che accade tra mente e gambe nei momenti difficili. Paolo dalla provincia di Cagliari. Paolo. Ciao, io chiamo proprio per questo discorso, il discorso della Fiorentina, di Mario Gomez in generale. Forse alla fine è proprio perché forse Mario Gomez soffre tanto la pressione, quindi io a questo punto mi chiedo, è veramente quel campione che la Fiorentina si aspettava? Perché ogni volta che lo aspettiamo si infortuna, ogni volta che comunque sia deve fare la differenza, tipo ieri. Quindi non possiamo dire che ha fatto comunque una bella partita, perché si è mangiato un sacco di gol. Contro la Sampdoria è stato imbarazzante, quindi c'è un giocatore che dovrebbe fare la differenza, cioè non basta più sentirci dire ah sì lo aspettiamo, ah sì bisogna aspettarlo perché è sempre infortunato. Io credo che adesso bisogna far parlare i fatti, e lui come tanti giocatori della Fiorentina, io adesso mi fermo sulla Fiorentina perché ci sono Cuadrado, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez che sono in una condizione imbarazzante. Sì, credo Paolo però che un pochino Gomez meriti di essere aspettato, ieri ha sbagliato tanti gol, credo che fosse, correggetemi se sbaglio, credo che fosse alla prima partita da titolare di nuovo. Io credo che la Fiorentina debba aspettare Gomez, in qualche modo è obbligata a farlo visto quelle che sono le condizioni degli altri, compreso Bernardeschi che di fatto perderà quasi tutta la stagione. Penso che i mali della Fiorentina siano lì. Certo, se ritrovasse Gomez, giocatore da 20 gol da qui alla fine del campionato, allora mille discorsi si potrebbero riaprire. Perché, ripeto, oggi è il venerdì dell'ottimismo e quindi devono essere ottimisti tutti. Io aspetto i pro Mazzarri, aspetto gli ottimisti interisti. È da un po' di mesi, no? Che ci sono tanti rumors, ogni settimana mi metto in una squadra diversa, ma come ho detto sempre in queste gare, per rispetto alla Ferrari, per rispetto a tutti che siamo qui, più di 70 persone che siamo qui a Sao Paolo per difendere la Ferrari in pista la domenica contro i nostri opponenti, e dobbiamo fare tutta la concentrazione qui. Il mio futuro, cosa farò, come dico, molto a poca priorità in questo momento quando c'è la Ferrari in mezzo a lottare. Qualche volta va bene a uno, qualche volta va bene a altro. Quest'anno penso Vettel ha avuto la macchina dominante per 4 anni, quest'anno ce l'ha Hamilton e Rosberg, lottano per il primo e secondo tutte le qualifiche, tutte le gare. È stato sempre la Formula 1 così, ho avuto io la macchina dominante 2005-2006 quando ho vinto i titoli. Sì, secondo voi dove lo iscriviamo Alonso? Partito degli ottimisti o partito dei depressi? Umberto Zappelloni, vice direttore Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Dove lo iscriviamo? È stato un anno in cui Alonso è stato molto depresso, tanto da arrivare a decidere di interrompere il suo contratto con la Ferrari. Lui si è così depresso che ha visto un futuro nero per la Ferrari e preferisce andare a scommettere su una nuova sfida che sarà quella della McLaren al 90%, mentre avrebbe sognato, per diventare un po' ottimista, di appoggiare su una Mercedes che oggi come oggi è la macchina vincente, la macchina che può dominare le prove e poi la gara anche qui in Brasile senza ombra di dubbio, e che molto probabilmente continuerà nel suo dominio anche l'anno 21. Sì, mi sembra che Alonso sia arrivato però al momento degli stracci. Io ho letto da qualche parte, ha detto ieri, questa è stata la mia miglior stagione, come a voler rimarcare ancora che è colpa della Ferrari, che non è competitiva, che si sente da un certo punto di vista tradito. Ecco, io stimo molto Alonso dal punto di vista del pilotaggio. Sta esagerando. In pista è il migliore di tutti. Poi nel suo rapporto con le squadre e con le squadre ha dei problemi, e gli è capitato lo stesso alla fine della sua epoca in Renault, gli è capitato lo stesso con la McLaren ai tempi di Ron Dennis e di Hamilton, suo compagno, e gli sta capitando adesso con la Ferrari. Lui non riesce bene a gestire i rapporti con la squadra, adesso sta esagerando. Io non credo che questo sia il suo anno migliore, è un anno in cui lui sta facendo sicuramente delle ottime cose, ha portato la macchina più avanti di quello che la macchina stessa valeva, lo dimostra la differenza di punti 102 che ha con il suo compagno di squadra, non è la sua stagione migliore, quindi lui sta cercando di incolpare, di dare tutte le colpe alla Ferrari. È vero, se lui non può lottare per il mondiale la colpa è della Ferrari, però ci sono stati anni in cui lui è stato vicino a vincere il campionato del mondo con la Ferrari per 2 stagioni, è arrivato fino all'ultima gara a vedersi il mondiale, e poi il mondiale è stato perso non sempre per colpa della Ferrari. Una gli è mancato il quid. Poi anche questo teatrino, potrei rinnovare con la Ferrari, non ho ricevuto ultimatum dalla McLaren, diciamolo sinceramente, sì, a me personalmente ha un po' stufato, assolutamente stufato, perché sappiamo benissimo che in Ferrari non potrà andare avanti, lo ha scelto lui non andare avanti. Lui sognava la Mercedes non cambierà Hamilton e Rosberg, deve decidersi di annunciare questo suo ingaggio con la McLaren. Certo, se lui pretende di andare in McLaren Honda, che l'anno prossimo avrà il nuovo motore Honda, per un anno solo è impossibile, perché chi si prenderebbe un Alonso in casa per una stagione sola, poi ipotizzando che lui se ne vada in Mercedes tra due anni, è una cosa che non sta né in cielo né in terra e che anche deve rendersi conto, anche perché i piloti di oggi devono imparare la lezione Ricciardo, cioè abbiamo la Red Bull, è arrivato un ragazzino che costa la metà di loro se non meno, che fino all'anno scorso era su una scuderia di secondo piano e messo su una macchina di un certo livello riesce a stare davanti al campione del mondo, al quattro volte campione del mondo Vettel. Quindi c'è una generazione di piloti che rischia di essere prepensionata da giovani che costano molto meno e che poi messi alla prova riescono a valere altrettanto. Questo anche per colpa delle nuove regole che magari non ti danno, non danno al pilota tanti margini di migliorare la propria macchina. Però questo è un campanello d'allarme per una generazione di piloti del livello di Alonso sui 30 anni. Sì, c'è un amico che scrive 349-238-6666, si firma vecchio ferrarista deluso, iscriviamo Alonso tra i signori, ha avuto anche troppa pazienza per quegli incapaci. Per carità, la Ferrari ha sbagliato tanto in questi anni e Alonso ha spesso avuto ragione, però poi anche lui non gli ha fatto fare il salto di qualità, non ha fatto fare il salto di qualità, e questo finale della sua avventura con la Ferrari sinceramente sta suonando stucchevole. Sta finendo male un'avventura che tutti noi pensavamo potesse portare al campionato del mondo e che lo stesso Alonso lo sognasse. Ci sono colpe da parte di tutte e due, perché la Ferrari negli ultimi due anni ha sicuramente sbagliato la macchina e quest'anno ha sbagliato tutto, anche il motore. Alonso ha sicuramente anche lui le sue colpe. Quest'anno ha più responsabilità la Ferrari di Alonso, l'abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo. La Ferrari ha sbagliato nell'accettare questi regolamenti, non si è resa conto di che si andava a infilare in un campo minato per lei e molto favorevole a chi come la Mercedes aveva una cultura ibrida per quanto riguarda i motori decisamente superiore. Quindi un errore di strategia colossale e poi un errore di progettazione della Power Unit e un po' meno, ma anche del telaio della macchina. Sì, una macchina che è da rifare da cima a fondo, poi sappiamo che se non cambiano le regole, il 2015, ho letto da qualche parte, si preannuncia peggio del 2014, almeno dai primi riscontri nella Galleria del Vento. Questa non è un'ottima notizia per nessuno, credo, non solo per i tifosi della Ferrari. Nessuno, però il motore ha un 40% di possibilità, un 50% di possibilità di intervento e io credo che è così indietro la Ferrari che un passo avanti lo farà sicuramente. Non sarà la macchina da battere, però è una macchina che magari potrà puntare al podio in ogni gara. Questo è quello che deve essere l'obiettivo della Ferrari di Marchionne, perché l'anno prossimo sarà la prima vera stagione con il nuovo presidente. Nel 2015 l'obiettivo Ferrari deve essere quello di poter puntare al podio ad ogni gara, cosa che quest'anno non è stata assolutamente. Assolutamente. A proposito di ottimisti e di depressi, Rosberg può essere ottimista? O quella striscia di 5 vittorie di Hamilton lo deve iscrivere nel club dei depressi, l'occasione per il mondiale è passata. Io credo sia più ottimista Hamilton oggi come oggi, arriva in un momento straordinario di forma, è vero che in Brasile non ha mai vinto, ma potrebbe anche arrivare secondo. Certo, c'è l'incognita dell'ultima gara col punteggio doppio che non mette al riparo da nessuna sorpresa, perché il vero problema di questa Mercedes è che ogni tanto la macchina si è rotta, è successa per Hamilton, è successa per Rosberg e sappiamo che se dovesse succedere l'ultima gara il ribaltone sarebbe possibile. Non può stare tranquillo Hamilton, ma ha i favori del pronostico e io credo che lo meriti perché ha vinto 10 gare, lo merita perché quando c'è stato da combattere con il compagno ha combattuto più lealmente del suo compagno di squadra. Sì, almeno quello ci ha fatto divertire in questa stagione. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Umberto Zappelloni. La possibilità di ir casi a cualquier equipo el momento que quiera durante los últimos años de mi carrera y por tanto pues tendré que ver si es la mejor opción, si la mejor opción es renovar con Ferrari para largo plazo, que es algo que llevamos hablando también durante todo el año. Hay muchas cosas tengo que pensar que es lo mejor para mí, lo mejor para el equipo también. Sì, poi c'è chi scrive, ma come Alonso senza il quid, mamma mia. Beh, l'ha detto anche Umberto Zappelloni, due volte la Ferrari è andata vicina al mondiale e due volte quel mondiale è sfuggito. C'è chi dice, perché la Ferrari è stata elegante ad annunciare pubblicamente Vettel quando aveva ancora due piloti sotto contratto? No, non è stata la Ferrari ad annunciare Vettel, è stata la Red Bull che ha annunciato che Vettel l'anno prossimo guiderà per un'altra scuderia. e a dirlo chiaramente, non tanto tra le righe, che quella scuderia sarà la Ferrari. 800 24 00 24, poi vi dico delle perle di Mihajlovic, eh? Stefano da Padova, Stefano. Io volevo, buongiorno, grazie della convocazione. Io volevo ricollegarmi al discorso che avete appena fatto, che la Ferrari ha perso due mondiali per un pelo. Se lei si ricorda, il secondo dei due è stato cosa? Prima della, di tutta lì, il penultimo che poi ha vinto Vettel. La Ferrari, la prima parte avevamo 60 punti di vantaggio su Vettel, poi Alonso venne centrato per due volte di fila da Grosjean e successivamente la Ferrari a seconda parte della stagione non ha mai evoluto la macchina, per cui diciamo le colpe sono tutte secondo me da far ricadere su una struttura tecnica non adeguata. Però Stefano, stai lì, d'accordo, le colpe della Ferrari ci sono e difatti mi pare che la Ferrari negli ultimi mesi abbia visto cadere tante teste anche per la gestione di questi anni, però Alonso era un pezzo importante di quella scuderia, o no? Cioè, se secondo me è difficile, ma io insomma, se quella macchina viene evoluta meno di quanto è successo agli avversari e in questo caso alla Red Bull, ma non è che la Ferrari non ha investito nell'evoluzione anche in quelle stagioni, è che sono state fatte scelte sbagliate. Secondo me Alonso non può tirarsi indietro e scaricare tutta la colpa sulla Ferrari. Ah beh certo, questo è il ragionamento. È la cosa che mi rende ottimista, il fatto che ci sia Marchionne, che già circola la voce che dall'anno prossimo si possa ritornare a provare e a modificare i motori fino a, almeno fino a luglio, perché la colpa più grande, come ha detto giustamente lei, è avere accettato supinamente determinati regolamenti quando loro sono una delle squadre che ha il potere di veto. Si accorgevano che vediamo le cose se capiterà andavano... Stefano, vediamo se Marchionne sarà capace di far cambiare alla Mercedes i regolamenti. Fin qui non risultano grandissimi risultati, Stefano. Alessandro da Monza, Alessandro. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, io sono abbonato da 20 anni all'Inter. Sì. Mazzariano o contro Mazzarri? No, io assolutamente Mazzariano, perché secondo me... L'abbiamo trovato, registrare 800 24 00 24, Alessandro da Monza, ore 15:25 di venerdì 7 novembre. Prego Alessandro. Sì, sì, no, so che vado cercato col lanternino, va cercato col lanternino chi la pensa come me, ma a me sembra che tutti si siano dimenticati il punto di partenza di Mazzarri. Mazzarri ha trovato le macerie, Pompei era messa meglio dell'Inter di quando è arrivato Mazzarri. Stramaccioni aveva distrutto tutto, aveva dato in pasto l'Inter ai giocatori, prendevamo 5-6 gol in casa dall'Udinese. Lui ha fatto un lavoro psicologico sulla squadra pazzesco, e il fatto che in una società come l'Inter i giocatori siano ancora dalla sua parte dice tantissimo, perché noi negli anni abbiamo visto tantissime volte la squadra abbandonare totalmente l'allenatore, vedi Gasperini a Novara, abbandonato anche dai senatori. Poi che non siamo stati sempre brillantissimi, ok, ma la squadra non è neanche più quella del triplete. Sì, i problemi ci sono, poi secondo me si trascura che in realtà ci sono due progetti che iniziano di Mazzarri, cioè Mazzarri ha fatto l'anno scorso quell'opera di consolidamento, di ricostruzione, poi è finita l'era del triplete del tutto quest'estate e da luglio in poi Mazzarri sta costruendo una squadra diversa su presupposti diversi, con budget diversi. Hai ragione Alessandro, secondo me i ragionamenti su Mazzarri andrebbero fatti tutti, compresi quelli del gioco che non c'è, e dopo un anno e mezzo alcune domande andrebbero fatte, ad esempio perché in estate ha detto che avrebbe provato la difesa 4 e la difesa 4 non è stata provata, come abbiamo visto settimana scorsa a Parma, con un secondo tempo dal punto di vista dell'organizzazione tattica deprimente. Però ce ne sono tante di cose da dire su Mazzarri. 800 24 00 24, se avete voglia. La maglia azzurra è una cosa che si attacca alla pelle quando un atleta partecipa alle Olimpiadi, a manifestazioni di questo genere, si mette una maglia che non si stacca più dalla pelle. Tutti convocati. Se fossimo perfetti adesso sarebbe bellissimo, ma preoccupante, per cui insomma io mi sono rivisto due volte la partita col Palermo e secondo me col Palermo la voglia non è mai mancata. Per cui, chiaro, ci sono stati aspetti che dobbiamo migliorare, è stata una partita strana. Juventus 18 gol fatti, mi sembra 4 subiti. Milan, aiutami se sbaglio, 18 fatti, 14 subiti. Infatti la Juve 3 anni che vince lo scudetto, per cui non mi meraviglia, ma noi non dobbiamo guardare gli altri, noi dobbiamo pensare a crescere. Non sono, e chiudo, tanti 14 gol subiti secondo te? Sì, sappiamo che dobbiamo migliorare. Alessandro da Monza ha aperto il dibattito, abbiamo trovato un Mazzariano, poi c'è qualcuno che scrive: un amico, toglietegli il fiasco. Ma c'è anche chi dice: ha ragione, io sono pro Mazzarri, alla fine i soldati sono quelli che sono e la guerra è solo all'inizio, vale anche per il Milan. Lo avete sentito, Inzaghi chiede tempo perché lui è ancora ottimista, ma fra ottimisti e depressi, in ogni caso, da domani si ricomincia. Alberto Polverosi, vai, siamo tutti con te. Alberto Polverosi, Corriere dello Sport. Ti ricordi Tafazzi, no? Sì. Oggi ci stiamo dividendo tra i Tafazzi che dicono che va tutto male e quelli ottimisti come me, Pierluigi Pardo, che dicono: no, ma guardate i risultati anche in Europa. Alla fine finissero oggi i gironi, insomma, il calcio italiano porterebbe 5 squadre al secondo turno e una retrocessa in Europa League, ma comunque con una fotografia diversa da quella che spesso ci siamo abituati a leggere. Tu cosa sei? Sì, no, sono per la speranza, diciamo, sono per la speranza. Né Tafazzi né ottimista. Sì, nel senso che ci sono delle indicazioni positive e delle indicazioni incredibilmente negative. Quelle positive arrivano in parte, in buona parte, da squadre come la Fiorentina, che hanno preso sul serio l'Europa League anche l'anno scorso alla stessa maniera, è già qualificata, ha fatto 4 ottime partite ieri, ha fatto una bellissima partita, gli è mancato il gol, mancato ancora una volta Gomez, ma insomma è una squadra che a livello europeo, la piccola Europa ovviamente, sa quello che fa. E le indicazioni negative arrivano da quando vedi partite come quella della Roma a Monaco, una partita di totale rinuncia da parte della squadra che ha la migliore qualità nel calcio italiano e ci rinuncia completamente su un palcoscenico come quello dell'Allianz Arena. Quindi cioè, ci sono dei momenti in cui dico anch'io come insomma non è proprio così male, poi altri momenti in cui mi viene a pensare che sia troppa la differenza. Peraltro questa, quella di Monaco, è anche una differenza cercata, voluta in senso negativo dall'allenatore che ha rinunciato, sì, ha messo fuori tutti i migliori. Quindi ci sono delle cose che vanno bene e altre che non tornano proprio. Io personalmente difendo Garcia per la scelta di mercoledì, è anche un momento particolare. La Roma secondo te è in crisi? Io ho la sensazione sia più una questione fisica che mentale, anche se Garcia ha detto è una questione mentale, psicologica, dobbiamo ritrovarci. Poi vai a vedere il numero degli infortuni, 11 infortuni muscolari, tanti assenti, giocatori che non stanno bene. Ma guarda, questa degli infortuni è una cosa, un dato oggettivo, non c'è discussione, però Garcia, a differenza di Allegri per esempio, ha potuto pescare in un organico e farlo ruotare finché tutto andava bene, diciamo fino alla partita del 7-1 con Bayern Monaco, e l'ha fatti ruotare benissimo. Io ho contato, prima di Juventus e Roma aveva fatto il doppio dei cambi, contando la formazione titolare ovviamente, di partita in partita rispetto a quelli di Allegri. E quindi insomma, vuol dire che l'organico della Roma è ampio e di qualità. Io non sono per niente d'accordo, cioè non condivido l'atteggiamento di mercoledì. Una squadra di calcio, a meno che non sia il Cittadella che va all'Allianz Arena, è una squadra di calcio che ha giocatori di qualità come Totti, come Gervinho, come Pjanic, non può giocare una partita senza giocarla, non lo può fare. Direbbe ci fosse un regolamento che te lo vieta, perché il segnale che dai alla tua squadra è pessimo, e non solo, ma è anche, come dire, secondo me è stato una lui si è contraddetto in pieno, perché dopo il 7-1 in casa ha detto questo è stato un incidente, non ci sono 7 gol eccetera, c'è benissimo, perfetto. Allora, siccome è stato un incidente, io non è che posso andare alla partita di ritorno e nascondermi, trincerarmi, mettermi tutti dietro in trincea senza giocare, perché se è stato un incidente, ma evidentemente sono state parole Alberto per cercare di mascherare un po' anche una lettura che forse è stata fatta anche nei giorni dopo, nelle tre settimane tra l'andata e il ritorno. Oggi la comunicazione è fondamentale, oggi non lo è da sempre, ma insomma in questo momento poi c'è un'attenzione incredibile, per cui tutte le parole che servono a spiegare una partita poi vengono prese e vengono pensate perché sono la spiegazione dell'analisi di un allenatore di livello come Garcia, e se quello è il senso, è un senso sbagliato in assoluto. Ed è ancora più sbagliato se ricordiamo quello che lui aveva detto. Cioè, non mi torna. Allora, se la Juventus esce la Juventus di Conte perde 2-0 a Monaco come perse, con una prima rete clamorosa, errore di Buffon che ne fa uno ogni 15 carriere, ti ricorderai, venne mediaticamente massacrata. Sì, venne segnalato in maniera forte la distanza che c'era tra la Juventus e il Bayern. Mediaticamente e giustamente, perché quello perché non è un calcio, non è un calcio di coraggio, non è un calcio di iniziativa, è un calcio di contenimento e stop. Di conseguenza dico che lo stesso va fatto nei confronti della Roma, anzi di più, perché la Roma rispetto a quella Juventus e rispetto anche alla Roma di oggi, alla Juventus di oggi, ha giocatori di maggior qualità tecnica e non ci posso rinunciare. Se Florenzi deve fare il mediano, mediano esterno, diciamo così, appiccicato al terzino, se Nainggolan deve stare appiccicato al terzino, se nessuno va, per me non va bene. Cioè non va bene, non è il segnale che devi dare alla tua squadra e al calcio italiano. Anche io la vedo così, se poi Poi ognuno può vederla ovviamente come vuole. Roma Torino Juventus Parma, chi delle due, quale delle due, se qualcuna delle due, rischia di più in questa domenica? Ma io credo che la Roma si attesa veramente alla risposta più importante, perché la Roma finora ha avuto non una discontinuità ma una instabilità preoccupante. Cioè la Roma, io sono uscito dallo stadio del City e ho detto, dopo Manchester Roma 1-1, ho detto è fatta, cioè la Roma è una squadra europea, la Roma ha fatto un salto incredibile, gioca con coraggio, con forza, con compattezza. Dopodiché è arrivata la partita con il Bayern Monaco, in cui la Roma non si è presentata. Dopo la partita del Bayern Monaco è arrivata la partita di Napoli, il primo tempo la Roma non si è presentata. E quindi non è che ha giocato male, perché giocare male succede, ci sono delle avversarie che mettono in difficoltà, dei momenti di crisi, delle assenze, come dici te, che pesano. No, la Roma non ha proprio giocato. E la differenza fra il Monaco, le due partite, è che il Monaco il Bayern su 7-8 occasioni fece 5 gol e il Napoli su 6-7 occasioni ne ha fatti soltanto 2. Sì, ci sono anche amici da casa che sottolineano, guardate che la Roma ha giocato male anche a Napoli, al di là della prestazione del Napoli. Quello forse è il campanello d'allarme Perché era maggiore. Era successivo a quella partita di Monaco. Cioè la Roma ha fatto due partite quest'anno da grandissima, cioè da squadra convinta e sicura di sé, da una squadra che ha un obiettivo preciso, lotto per lo scudetto, e perché lo vinca la Juve deve succedere qualcosa di speciale, perché io ho maggiore qualità della Juventus e adesso anche una grande convinzione. E queste sono state le partite di Torino, perse in maniera assurda, e di Manchester. Dopo le due partite è successo, sì, si è un po' spenta, quella di Torino è stata la prima delle 4 perse in 7, che è un numero importante. Grazie Alberto. Grazie a voi, ciao. Grazie Alberto Polverosi, Corriere dello Sport. 800 24 00 24. C'è chi dice che il Bayern che batté la Juventus valeva la metà di questo di Guardiola. Non lo so, tema interessante. Lucio da Treviso, Lucio. Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io volevo ricollegarmi al discorso di Mazzarri, se possibile. Sì, siamo qui. Concordo con quanto diceva il mister Simoni, È antipatico, diciamo che, è antipatico. Sì, cioè Mazzarri sì, paga il fatto che è antipatico. Diciamo poi... che fa di tutto per rendersi antipatico, perché continua a lamentarsi degli arbitri, come giustamente veniva evidenziato precedentemente dagli arbitri. Quindi noi, Lucio, giudichiamo il valore di un allenatore sulla sua simpatia. Cioè anche Mourinho non era simpaticissimo, Lucio? Sì, no, no. Comunque non lo ritengo nemmeno un grande allenatore, sinceramente. Se devo fare un mix, preferisco avere un allenatore meno piagnone e che parli un po' più con i fatti. Attaccarsi all'eterno discorso di non avere gli uomini, di essere senza, di giocare troppe partite, quando ci sono questi discorsi, sono i soliti discorsi che ci si attacca dove. Quando non si riesce a trovare un'altra soluzione. Sì, non è il primo e non sarà l'ultimo Mazzarri, Lucio. Il primo e non sarà l'ultimo, immagino, soprattutto nella seconda parte della stagione, credo ne sentiremo altri. Ci fermiamo, c'è il traffico? Traffico. Pensa mai al passato? Beh, sì, ci pensa spesso? Sì, ci penso perché non è certo un ricordo, non so, piacevole. Fino a 9 anni sono stato bene perché ero libero, abituato a girare, partire magari la mattina da casa, ritornare all'ora di pranzo, poi riuscire fino alla sera libero. Poi a 9 anni morì mio padre e mi sono ritrovato in un collegio. In un collegio così, abituato, cioè costretto ad obbedire, con degli orari. Tutti convocati. Vi leggo Mihajlovic oggi, vigilia di Sampdoria-Milan. Il rosso e il nero mi piacciono, ma solo se stanno tra il bianco e il blu. Quella della Samp è la maglia più bella del mondo. E ancora non ricordo gol di Inzaghi di preciso, ma lui sicuramente si ricorda le botte che gli davo. Non male questa, E ancora, se vogliamo restare in paradiso, dobbiamo battere il diavolo. Ha detto anche che il Milan è superiore, ma in campo ci va la fame. E per questo lui pensa che domani sera la Sampdoria possa battere il Milan. Pasqualino d'Avellino, Pasqualino. Ciao, buonasera. Prego. Senta, piacciono le massime di Mihajlovic, Io volevo semplicemente spendere una parola a favore di Mazzarri, insomma, se vogliamo essere un altro mazzariano, Pasqualino d'Avellino, prego. Sì, oltre ad essere un interista, Mazzarri ha a disposizione 6 calciatori nella rosa. Cioè, se fino a un attimo fa si parlava che Garcia ha tenuto in panchina Totti, ha tenuto in panchina Gervinho, ha tenuto in panchina i migliori calciatori a livello europeo, che è un'assurdità che condivido pienamente, Mazzarri, se non ha un terzino, mette dentro un ragazzino di 16 anni, un ragazzino di 15 anni. Per cui, data l'indisponibilità di 8 elementi che di valore modesto, l'Inter ha fatto la fine che ha fatto nelle ultime giornate di campionato. Non ci dimentichiamo che fino a 4 partite fa poteva essere l'anti-Juventus o una squadra che mirava al terzo posto. Sì, Pasqualino, l'anti-Juventus non credo. C'è stato un momento fino al primo tempo con il Cagliari che si è parlato di una squadra solida, costruita per arrivare terza e che poteva esprimersi meglio nel lotto di quelle squadre che sono lì dietro. Poi hai ragione, io credo che fondamentalmente il grosso problema sia che a Mazzarri mancano da qualche settimana 3 esterni su 4 e chi fa il 3-5-2 solitamente ama avere 4 esterni da alternare perché è un ruolo molto dispendioso. Credo che il problema sia lì. Poi c'è l'infortunio di Osvaldo, le condizioni di Palacio, c'è anche qualche problema di Mazzarri nel costruire un gioco che, hanno ragione gli interisti, non c'è. Però oggi lo fischiano a prescindere e noi 2 mazzariani li abbiamo trovati. 800 24 00 24, io lo dico fin da ora, domenica dalle 17 alle 19, mazzariani o non mazzariani, siete convocati e parliamo anche di Inter Verona. Marco da Roma. Dai Tafazzi, vai, siamo tutti con te. Secondo me sono un po' Tafazzi, i tifosi dell'Inter, quelli che vanno a San Siro andranno anche domenica con 2 mani pronte per fischiare Mazzarri a prescindere. Marco da Roma, Marco. Sì, salve, buongiorno. Prego. Io non sono assolutamente mazzariano, anzi il contrario, anche se poi non condanno chi ovviamente lo sostiene, perché se parliamo con persone dell'Inter o vicine all'Inter, comunque tutti gli riconoscono questa grande professionalità, applicazione, lavoro, eccetera eccetera, però secondo me ormai il vaso è colmo, insomma non possiamo continuare a giustificare un allenatore che ormai sono un anno e mezzo che non veramente non riesce a dare una svolta. Un anno e mezzo? Sì, dalla scorsa stagione. Cioè, dalla prima giornata della scorsa stagione Mazzarri è una delusione, Marco. Sì, fondamentalmente sì, perché non basta qualche partita vinta di seguito per dimostrare che c'è una squadra, c'è un gioco e c'è un progetto. E poi anche sul progetto ce ne sarebbe da dire, insomma, avallare l'acquisto di un Hernanes che sono 3 anni che non è decisivo in nessuna parte del campo. D'accordo, gli eroi del triplete ormai erano arrivati, eccetera, però non si sconvolge uno spogliatoio dove alla fine c'è qualche leader che magari anche tenendolo in panchina riesce comunque a fare gruppo. Adesso con tutti questi giovani non oso pensare, Marco, se Mazzarri si fosse opposto all'acquisto di Hernanes gennaio dell'anno scorso dopo la storia di Guarini della Juventus, non oso pensare. Franco Piantanida. Sì, voglio rubare il posto ad Alessandro Cattelan. Mi candido ufficialmente da Radio 24. Abbiamo una candidatura pesante? Sì, perché io non solo voglio presentare, ma io voglio portare anche il mio cavallo di battaglia per la prossima edizione di X Factor. E chi mandiamo? E chi vuoi che mandiamo? Chi mandiamo? È il nostro tributo. Questa è la voce di Claudia Schiattone, sentite, perché non è solo brava, competente, simpatica, spigliata, mazza che beccata, ma anche la voce, visto che oggi è il suo ultimo giorno. Allora noi la porteremo alle audizioni di X Factor per... Noi dobbiamo dire che Alessandro Cattelan è un nostro amico, ci ascolta, quindi di prendere nota, poi ci chiama e gli diamo il numero. No, noi vogliamo salutarla Claudia Schiattone, che ha condiviso con noi 6 mesi di percorso di tutti i convocati, oggi chiude, passa. Che tristezza. Però nella vita c'è sempre tempo per rincontrarsi, vero? Vabbè. La poesia di Giovanni Capuano, una roba pazzesca. Oh, noi ci fermiamo, grazie ancora. Grazie anche a Roby Scaltritti, grazie ovviamente a Franco Piantanida. Franco, oggi titolare. Noi torniamo domenica 17-19, convocati tutti, i depressi, gli ottimisti, i tafazzi, convocati i mazzariani e gli anti-mazzariani. Ci sentiamo domenica, ciao! Prova il sinistro! Del palo incredibile! Ma che buongiorno, allegri! Dov'è? È al telefono, è una telefonata privata. Cosa che non va? In questa storia quello che non va sei tu, perché sei vittima della tua stessa creazione. Due equipaggi, due galli sono troppi nello stesso pollaio. Russ non ne risente affatto. Oh no, solo che dall'incidente Cole è considerato un piantagrane e Russ pensa di poterti dare beccate come e quando vuole. Non mi sembra che faccia niente del genere, e neanche la NASCAR ha questa impressione. Oh, allora è falso, certo, sei sfuggito allo sguardo attento di esperti come te e della NASCAR. Te lo dico io che succede. Cole sta correndo male, gira senza griglia e lo sponsor si sta rompendo. Ma tu no, vero? Ora come ora, ma voglio tenermi lo sponsor oltre a Cole. So che è stato lui a rendere possibile tutto questo, non l'ho scordato, Henry. Ok. C'è la belva delle favole e c'è la belva della realtà. Dobbiamo imparare a farci i conti con questa belva, a misurarla e a controllarla. Insieme a voi, facendovi parlare, facendovi ascoltare, facendovi anche arrabbiare, provocandovi i conti della belva con... Carlo Alberto, Carnevale Maffè e Oscar Giannino, tutti i sabati dalle 10 alle 12 su Radio 24, i conti... della belva!